Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Buonasera, sono le 21:02, una buona serata da Enrico Pagliarini. A Milano diluvia in questo momento, non so che cosa e quale sia il tempo nelle altre zone d'Italia, magari scriveteci un messaggio con i nostri consueti numeri, ve li ricorderò più tardi. Alessandro Schirano mi aiuta in redazione, Filippa Oreggi in regia alla parte tecnica. Questo è Effetto Notte, edizione del 2 giugno, Festa della Repubblica. E sulla Festa della Repubblica Mattarella ha parlato oggi, dice, da qui riparte l'Italia del coraggio, in visita a Codogno, ne parleremo tra poco, da domani al via lo spostamento fra regioni. Quasi raddoppiati i contagi nelle ultime 24 ore, ma a fronte di molti più tamponi scendono i morti, 55 sotto quota 40.000 i malati. Ancora scontri negli Stati Uniti, 2 morti a Chicago, coprifuoco a New York fino a domenica, ma il sindaco De Blasio non vuole la Guardia Nazionale. Sono ufficiali le prime 8 gare della Formula 1, doppio appuntamento in Austria e Gran Bretagna. Iniziamo dal capo dello Stato. Da qui, come dicevamo, riparte l'Italia del coraggio. Per la prima volta nel giorno della Festa della Repubblica, Mattarella, dopo l'omaggio all'altare della patria, ha lasciato Roma per essere a Codogno, paese della Bassa Lodigiana, simbolo dell'epidemia iniziata il 21 febbraio che ha piegato anche l'Italia. Il pensiero di Mattarella è andato ai morti del virus. Ricordiamo che quelli ufficiali sono ad oggi 33.530. Sentiamo il racconto della nostra inviata. Il silenzio della prima zona rossa è ora rotto dagli applausi degli abitanti di Codogno che si incontrano di nuovo nelle strade addobbate col tricolore per accogliere il capo dello Stato, perché qui dove tutto è cominciato oggi si ritrova la Repubblica, scandisce Sergio Mattarella in un rinnovato appello all'unità del Paese. Questo è il tempo di un impegno che non lascia spazio a polemiche e distinzioni. Qui a Codogno, in questa casa comunale, oggi è presente l'Italia della solidarietà, della civiltà, del coraggio. Al cimitero il presidente scopre una lapide in memoria delle vittime del coronavirus. Solo a Codogno 264 in 2 mesi. In questa cittadina dell'Lodigiano da settimane non si hanno più contagi, ma qui ogni famiglia ha perso un congiunto e piangere i nostri morti, si commuove un'anziana, è il primo passo per andare avanti. Il ritorno è bellissimo, però il ricordo di quelli morti ci ha feriti profondamente. È una giornata simbolica, importante. E il nostro presidente è una grande testimonianza. È dura, è stata dura perché ha toccato tutti. Dopo 103 giorni di dolore, di paura, con tanti che li consideravano untori, questo lungo applauso ha fatto sentire gli abitanti della Bassa Lodigiana tutti di nuovo vivi, uniti e parte dell'Italia. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Codogno. Un paese dunque pronto a ripartire, ma per il centrodestra non è questo il governo adatto a traghettare il paese fuori dall'emergenza. Tra selfie e cori contro il premier Conte, nel giorno della Festa della Repubblica il centrodestra torna in piazza unito per attaccare il governo, incapace, secondo il leader del Carroccio Salvini, di rilanciare il paese. Servono soldi veri subito, il recovery fund ce li porta nel 2021, è tardi, servono soldi adesso. Il MES ha delle condizioni per noi insostenibili per gli italiani. La nostra proposta è quella che il governo peraltro ha già applicato 15 giorni fa e potrebbe applicarla in maniera più sostanziosa, buoni del tesoro. Via bonus inutili, marchette e soldi sulle consulenze. Scandisce Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia. Se si vuole rilanciare la nazione ci si deve occupare fondamentalmente di 3 cose: difendere il lavoro, sostenere le imprese che resistono e aiutare ovviamente chi sta scivolando sotto la soglia della povertà. Un grande striscione tricolore è il simbolo del flash mob cui dovevano partecipare solo in 300 tra amministratori locali e parlamentari, ma che per la folla di fan e militanti, in molti senza mascherina, si trasforma quasi subito in un corteo affollato dove gli inviti alla sicurezza cadono nel vuoto con momenti di tensione tra servizio d'ordine, cameraman e fotografi, per un distanziamento impossibile da rispettare. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. L'Italia si prepara alla ripartenza e il premier Giuseppe Conte coglie il messaggio che arriva dal Quirinale: bisogna unire le energie nello sforzo di rialzarsi con la massima determinazione. Non c'è tempesta che possa piegarci, dice Conte, scacciamo via la tentazione delle rincorse a dividerci. E tra le ripartenze c'è anche quella della scuola. Giovedì prossimo è previsto un incontro insieme alla ministra dell'istruzione Lucia Azzolina per far ripartire le lezioni in classe a settembre insieme ad enti locali e sindacati. Intanto si prepara l'assalto al decreto rilancio in conversione in Parlamento, tra i nodi i fondi per la cassa integrazione e il pressing delle opposizioni che chiedono meno tasse per iniziare a collaborare sul testo. Collaborazione auspicata anche dal segretario PD Nicola Zingaretti per un patto con tutte le forze politiche. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Adesso parliamo della riapertura dei confini regionali che appunto è prevista per domani. Facciamo il punto in questo servizio. È fatta. Da domani si potrà di nuovo spostarsi da regione a regione. Una conquista ottenuta col sacrificio di tutti, ha detto in TV il ministro per gli affari istituzionali Francesco Boccia. Con il ritorno della libertà di movimento restano l'obbligo del distanziamento sociale di almeno un metro e in mancanza dell'uso della mascherina. I governatori potranno firmare ordinanze restrittive e in caso di nuovi focolai decidere zone rosse in accordo col governo, ma nulla che possa limitare la libertà di movimento dei cittadini. Ci sarà il controllo della temperatura per chi prende treni, aerei o navi e i passeggeri saranno inoltre tracciati con le generali attraverso la compilazione di moduli che potranno essere conservati 14 giorni. In auto, obbligo per i passeggeri non conviventi di distanziamento con il guidatore da solo davanti e al massimo due persone sui sedili posteriori. Prima di partire non bisogna dimenticare di accertarsi delle condizioni del veicolo, spesso rimasto fermo per mesi, e di badare al traffico che potrà essere, specie nel weekend, elevato anche per i numerosi restringimenti di carreggiata per lavori. La stagione balneare è stata avviata in quasi tutte le regioni italiane, fanalino di coda la Sicilia, dove gli stabilimenti potranno riaprire solo sabato prossimo. Le linee guida per le spiagge in sicurezza prevedono un'area di 10 metri quadri per ogni ombrellone, ma Veneto ed Emilia Romagna hanno aumentato lo spazio fino a 12. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso il punto sui dati comunicati oggi dalla Protezione Civile. I nuovi contagi tornano ad aumentare dopo diversi giorni di calo. L'ultimo bollettino registra un incremento di 318 casi contro i 178 del giorno precedente. I numeri però sono meno negativi di quanto possano sembrare se messi in relazione a quello sui tamponi effettuati, oltre 52.000 rispetto ai più di 31.000 del dato precedente. Si passa quindi da un caso ogni 176 tamponi a uno ogni 164. In Lombardia quasi 6 nuovi positivi su 10, 187 contro i 50 del giorno prima, ma anche qui si sono fatti molti più tamponi. Altri 57 contagi in Piemonte, 19 in Emilia-Romagna, 15 in Liguria, 10 in Toscana. Per il resto numeri sotto la decina e 0 contagi in 8 regioni: Puglia, Trentino-Alto Adige, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Al bilancio dei decessi se ne aggiungono altri 55, il numero più basso dal 2 marzo. Altre 1737 persone sono guarite e i malati sono scesi sotto quota 40.000 grazie a un calo di 1.474 unità, più del doppio del dato precedente. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo dell'applicazione Immuni, ne abbiamo parlato molto ieri sera, che avvisa in caso di contatto ravvicinato con una persona risultata poi positiva al coronavirus. Ha superato i 500.000 download in meno di 24 ore dalla sua pubblicazione negli store di Google e di Apple. L'applicazione è disponibile da ieri, tutti possono scaricarla, ma ricordiamo che a partire dall'8 giugno verrà sperimentata in 4 regioni, Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia, prima di essere resa operativa su scala nazionale. Quindi se la scaricate potete attivarla, ma diciamo che funzionerà solo nel momento in cui verrà estesa anche alla vostra regione, a meno che abitiate in Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia, e questo succederà dall'8 giugno. Ci spostiamo all'estero, disputa sui morti per coronavirus in Spagna, sembra di essere in Italia, dove oggi il Ministero della Sanità ha ufficialmente annunciato che il paese non registra vittime per il secondo giorno consecutivo, ma dove due regioni, le Asturie e la Comunità di Madrid, dichiarano invece nelle ultime ore rispettivamente 6 e 12 vittime, con la regione della capitale che ne aveva già dichiarate 11 ieri. Va peggio in Gran Bretagna, dove oggi sono stati comunicati 324 decessi rispetto ai 111 di ieri. Prove di ripartenza con prudenza anche in Francia, dove riaprono i bistrò. Les clients sont très heureux de la réouverture des terrasses. Faudra quand même calmer un petit peu. I clienti sono molto felici della riapertura, ma bisogna calmarli un po' facendogli rispettare le norme sanitarie, dice il proprietario di un ristorante sul canale Saint-Martin. La Francia riscopre i suoi bistrò nel tentativo di esorcizzare l'incubo del coronavirus. Con la seconda fase dell'uscita dal lockdown, bar e ristoranti riaprono in tutto il paese. Ai locali di Parigi e del resto dell'Île-de-France è stato consentito solamente il servizio ai tavolini esterni a causa della presenza ancora troppo forte del Covid-19. Le restrizioni non sembrano però aver scoraggiato i parigini, che approfittando dei primi caldi primaverili si sono riversati sui tavolini dei bar, tornando a un rituale che ormai sembrava essere dimenticato. Per agevolare le attività, la capitale ha consentito l'ampliamento degli spazi pubblici occupati dai locali, ma le misure per il momento sembrano essere seguite dagli avventori. C'est normal, c'est des restrictions qui sont censées nous protéger. È normale, sono restrizioni pensate per proteggerci, ma saranno progressivamente tolte, dice una ragazza seduta al tavolo di una brasserie. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Ci spostiamo negli Stati Uniti, dove le proteste contro le violenze della polizia ai danni degli afroamericani e dopo la morte dell'afroamericano George Floyd fanno ancora scendere le persone in piazza. Ha innescato uno scontro politico, tra l'altro, con al centro la città di New York. Sentiamo i particolari nel nostro servizio. Tensione alle stelle negli Stati Uniti, dove l'incremento delle violenze nelle proteste seguite alla morte di George Floyd hanno portato il presidente americano Trump a minacciare di schierare l'esercito nelle strade qualora le forze dell'ordine locali non riuscissero a riportare la situazione alla calma, una mossa per la quale dovrebbe ricorrere all'Insurrection Act. There were peaceful protesters who rejected the violent elements. Questo mentre il sindaco di New York de Blasio annunciava un coprifuoco per tutta la settimana nella Grande Mela dalle 20 alle 5 della notte, dopo che le violenze sono arrivate fino al cuore di Manhattan. De Blasio ha respinto al mittente l'idea di un invio della Guardia Nazionale in città, ma è stato aspramente criticato dal governatore dello Stato Cuomo per aver sottovalutato i rischi di ordine pubblico. Nelle ultime ore un poliziotto è morto a Las Vegas, nel Nevada, nel corso di una sparatoria. Altri 4 poliziotti sono stati feriti a St. Louis, in Missouri. 2 persone sono invece morte a Chicago, in circostanze da chiarire, mentre decine di manifestanti sono rimasti feriti nel corso degli sgomberi da parte delle forze dell'ordine in oltre 75 città. Una situazione esplosiva che ha visto il ritorno in campo del candidato democratico alla Casa Bianca, Biden. Biden ha accusato Trump di usare l'esercito contro il suo stesso popolo e, parlando a Filadelfia, ha detto: "Se sarò eletto presidente, non sarò un leader che genera paure e divisioni". Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Rimaniamo all'estero. Un attentatore suicida si è fatto esplodere presso una moschea nella Green Zone, la zona verde di Kabul, la capitale dell'Afghanistan, dove si trovano le ambasciate e gli edifici governativi. L'esplosione ha causato almeno 3 feriti. È morto a Milano lo scrittore e giornalista Roberto Gervaso. Aveva 82 anni e aveva iniziato l'attività giornalistica nel 1960 al Corriere della Sera, presentato da Indro Montanelli, con il quale aveva firmato i primi 6 volumi della Storia d'Italia, edita da Rizzoli. In chiusura di questa prima parte di Effetto Notte, una notizia di Formula 1 che ha ufficializzato il calendario con le prossime 8 gare nel continente europeo. Ci saranno 2 tappe consecutive sia in Austria sia in Gran Bretagna. Allora, il primo Gran Premio si disputerà il 5 luglio sul circuito austriaco della Red Bull, che ospiterà anche la gara del 12 luglio. La settimana dopo i team si sposteranno in Ungheria, doppio appuntamento anche in Gran Bretagna sul circuito di Silverstone, dove si correrà il 2 e il 9 agosto. Le altre 2 gare di agosto sono quelle di Spagna e Belgio, poi si arriverà il 6 settembre in Italia a Monza. Tutte le gare saranno senza pubblico. La Formula 1 ha anche comunicato che le successive prove saranno ufficializzate nelle prossime settimane, con l'obiettivo di arrivare ad almeno 15 o 18 corse stagionali. Vedremo che cosa succederà. Adesso non abbiamo una pausa, perché non sappiamo che cosa sta succedendo sulle strade e autostrade con il consueto appuntamento della viabilità. Allora ci colleghiamo con Raffaella Calandra alle 21:16 minuti. Raffaella, buonasera. Ciao Enrico, buonasera a te e ai nostri ascoltatori. Allora, tu oggi sei stata a Codogno, dove eri stata già nelle primissime ore. 104 giorni fa, il 21 febbraio. Venerdì, giusto, se non sbaglio. Se non ricordo male, sì. Giusto. Allora, oggi c'è stato il Presidente della Repubblica e mi sembra di aver capito che, soprattutto per le persone che hanno vissuto questi mesi a Codogno, come del resto in tutta l'Italia, però c'è stata molta emozione. Sì, è stata l'emozione di chi ha provato oggi di nuovo la sensazione di risentirsi una comunità viva e anche unita di nuovo, dopo 3 mesi di grandi paure, di angosce e anche di dolori, qui dove ogni famiglia ha avuto un lutto. Oggi la gente di Codogno si è ritrovata di nuovo in piazza con le mascherine, forse un po' più strette di quanto sarebbe stato necessario, per salutare il Presidente della Repubblica. E in quell'applauso grato che c'è stato per Sergio Mattarella c'è stata anche un po' la rottura di un silenzio che è andato avanti per 3 mesi, e come una forma di applauso anche liberatorio rispetto alle proprie angosce e le emozioni di tanti, devo dire, sia dei più anziani che hanno raccontato di quanto sia stata dura tutto attraversare questo periodo, sia anche dei più giovani che hanno ammesso di essersi risentiti oggi per la prima volta vivi dopo una lunga quarantena. Quindi il potere anche di certi simboli istituzionali. Allora, c'è ovviamente il dolore, il ricordo delle vittime, la sofferenza per questi mesi, ma dice il sindaco che tu hai intervistato, il sindaco di Codogno, Francesco Passerini, servono aiuti per le nostre imprese, e penso che questo sindaco rappresenti la voce di molti altri sindaci d'Italia. Sentiamo le sue parole. In 15 giorni di chiusura della zona rossa, solo per il bacino della zona rossa c'è stata una perdita di PIL pari a 100 milioni di euro. Solo in 15 giorni, che è stato proprio le perdite recate dalle tantissime attività che risiedono sul nostro territorio. È chiaro che servono aiuti concreti per riuscire a dare liquidità a questi imprenditori che da 3 mesi stanno anticipando stipendi, contributi, sostegni ai loro dipendenti grazie alla forza morale che li lega alle loro attività. E quindi io credo che sia veramente arrivato il momento di accelerare quelle procedure che ancora oggi vedono bloccate, per far arrivare le risorse ai nostri concittadini, ai nostri imprenditori, perché ricordiamoci che se il mondo economico si ferma, il paese si ferma. Raffaella, tu hai sentito non solo il sindaco, ma anche gli imprenditori di Codogno. Sì, ho parlato con un po' di commercianti, ho parlato con artigiani o come con degli ambulanti ritornati al mercato che ha ripreso la sua attività e che invece si era interrotto proprio quel venerdì 21 febbraio, e tutti, diciamo, pur nella gioia di aver ricominciato a dare la propria attività e anche a dare appunto un segnale, un servizio, aver ripreso a lavorare, le preoccupazioni sono forti, in tanti raccontano storie di cassa integrazione, tanti raccontano delle incertezze rispetto ad un futuro che comunque, anche laddove il lavoro è ricominciato, non ha più le stesse stime di un tempo. Così anche tra i banchi del mercato gli stessi ambulanti raccontavano di come le persone adesso spendono molto meno, perché ovviamente sono molto più preoccupate, ma ci sia anche forse anche proprio una forma ancora anche di paura che trattiene dal portare nei negozi e quindi anche ai banchi del mercato. Sentiamo queste testimonianze. È stata una gioia immensa, appunto, dopo 3 mesi di fermo, comunque di spese, ritornare alla normalità. Abbiamo ancora comunque dell'invernale invenduto, ormai già pagato da dicembre, e quindi dopo 3 mesi abbiamo dovuto reinvestire dei soldi per far sì che le nostre aziende ripartissero con la roba primavera estate. Siamo proprio allo sbando, fate clienti nuovi, perché purtroppo tanti ci mancano e adesso dobbiamo tornare ancora da capo e andiamo avanti, però la crisi c'è, il denaro serve, però purtroppo non ne abbiamo, perché qua spendono poco, adesso il lavoro non ce n'è, non capiamo più niente, guardi, un esaurimento quasi totale. Mi hanno fatto richiesta anche dai 600 euro, ho visto niente. Sentiamo tante promesse alla televisione, dai telegiornali, però di denaro non ne vediamo, solo parole, parole, parole, basta. Non è più un lavoro come prima, ne abbiamo messo in 4, ci siamo in 2. Sono le 21:20 minuti, 45 secondi, grazie a Raffaella Calandra che oggi è stata a Codogno. Raffaella, la prossima volta a questo ascoltatore digli però di ascoltare la radio invece che guardare il telegiornale. In realtà gliel'ho detto. Bravissima, bravissima. Poi non cambia niente, cioè non è che arrivano i soldi se uno ascolta il giornale radio, i programmi della radio. Grazie Raffaella. Sono le 21:21 minuti. Gli ascoltatori mi hanno informato che non piove solo a Milano, dove appunto quello, come dicevo poco fa, sta diluviando, a meno che non sia terminato da pochi minuti. Anche a Verona Francesca ci informa che sta piovendo, e cioè sta diluviando. A Torino invece Valerio ci dice che è una serata fantastica, così come a Trento. Dario ci ha scritto un messaggio dicendo non si sente più la radio, poi ha detto adesso si torna a sentire, però non ci ha detto dove, quindi che cosa ci manda il messaggio a fare se non ci dice dove. Adesso ci spostiamo per un altro, un'altra serie di fatti tragici a New York, partendo però dalle voci che il New York Times ha messo assieme in un video molto toccante. What do you want? I can't breathe. Questa è la voce con le parole che ormai sono state pronunciate anche in molte manifestazioni. Non riesco a respirare. Un video del New York Times intitolato 8 minutes and 46 seconds, come George Floyd è stato ucciso durante una perquisizione della polizia, pubblicato dal New York Times, che ha fatto una ricostruzione trovando anche dei video sia di persone che filmavano questo fatto, ed è effettivamente incredibile vedere questi poliziotti che continuavano a, questo poliziotto in modo particolare che poi è stato incriminato, Derek Chauvin, che continuava a tenere il ginocchio sul collo di Floyd. Marco Valsania, collegato con noi da New York. Marco, buonasera. Buonasera a voi. Marco Valsania è una delle firme del Sole 24 Ore da New York. Allora, quali sono le ultime notizie? Qual è la situazione ad oggi? La situazione è che continuano a intensificarsi le proteste su scala nazionale, quindi decine e decine di città che ormai ogni giorno da oltre una settimana vedono manifestazioni, proteste, cortei che si susseguono con migliaia di persone, normalmente pacifiche durante la giornata, e poi con episodi invece di maggior violenza qualche volta di saccheggio e anche di furti in negozi, diciamo, nel corso poi delle nottate. Ormai c'è il coprifuoco in almeno una quarantina di città americane, coprifuoco che viene esteso, a volte progressivamente vengono anche, diciamo così, vengono anche anticipate gli orari di questi coprifuoco in tutte le grandi città, quindi da Los Angeles a New York. New York in questo momento, proprio per gli ultimi aggiornamenti, è in corso una grande manifestazione di migliaia di persone che si sta snodando per la zona del quartiere di Midtown di Manhattan. Il coprifuoco scatterà verso alle 8 di sera. Sono in corso proteste a Seattle. A Seattle ci sono stati alcuni scontri, non è chiara chiaramente la dinamica. Spesso la polizia, a volte ci sono dei momenti di tensione con i dimostranti, a volte la polizia sembra reagire con particolare aggressività. Anche numerosi giornalisti sono rimasti attaccati, sono rimasti colpiti durante queste manifestazioni, a volte piuttosto spesso anche dalla polizia, perché usa proiettili di gomma, usa flash grenades, usa lacrimogeni, sparando a volte sulla folla. L'episodio più forte, diciamo, del momento di tensione quasi simbolico è avvenuto ieri sera, quando appunto alla Casa Bianca Trump per la prima volta ha parlato, diciamo, al paese, ma lo ha fatto in un clima quasi di guerra. Fuori c'era dalla Casa Bianca, nei pressi della Casa Bianca era in corso una manifestazione pacifica. A un certo punto però chiaramente, diciamo, è arrivato l'ordine di sgombrare i dimostranti, quindi con particolare aggressività, intervento di un misto di forze della polizia militare, della guardia nazionale, degli agenti del servizio di sicurezza e della polizia. I dimostranti sono stati sgombrati piuttosto aggressivamente, perché Trump aveva deciso, dopo aver fatto un annuncio con un messaggio soprattutto di legge e ordine, che appunto non avrebbe tollerato disordini e avrebbe incoraggiava, diciamo, comunque un pugno più duro nei confronti dei dimostranti, aveva deciso di recarsi a piedi a una vicina chiesa vicino alla Casa Bianca, che era rimasta danneggiata nel corso di tafferugli delle giornate precedenti, quindi ha fatto sgombrare, diciamo, piuttosto violentemente un corridoio per recarsi appunto a questa chiesa. Poi si è recato dove ha fatto scattare alcune foto con una Bibbia in mano, suscitando anche le durissime reazioni del vescovo della diocesi, della chiesa, che ha detto che appunto è una cosa assolutamente inaccettabile usare la chiesa, usare la Bibbia come una specie di prop per una foto, per un'opportunità fotografica. Quindi diciamo il clima resta estremamente teso. Ieri Trump aveva anche minacciato l'uso del così ricorso, se necessario, all'esercito regolare, che è una cosa assolutamente rara e con anche forti dubbi, diciamo, costituzionali. Potrebbe ricorrere alcune leggi speciali anti-insurrezionali che risalgono all'Ottocento, ma insomma è piuttosto diciamo così discussa come cosa. Oggi il Pentagono ha quasi fatto marcia indietro, facendo capire che diciamo che, prendendo le distanze dalla possibilità di usare forze dell'esercito regolare, la polizia militare è una cosa diversa dentro Washington, nel senso, perché la Casa Bianca si trova a Washington e quindi c'è una giurisdizione particolare per usare la polizia militare per proteggere, fra virgolette, la Casa Bianca, ma fuori, diciamo, da lì è tutto un altro, diciamo, un altro tipo di controversia. Quindi, esatto, un clima che resta molto molto molto teso. Ti faccio solo un'ultima domanda. Da quando tu abiti, vivi, lavori negli Stati Uniti, a New York, ti ricordi che ci sia stato il coprifuoco? Non veramente. È possibile che ci siano stati dei momenti in cui, diciamo, quando c'è stato l'11 settembre, è anche difficile ricordare perché la tensione era tale e diciamo le preoccupazioni erano talmente altre che però questa è una situazione un clima oggettivamente diverso. Straordinaria. Esatto. Insomma. Esatto, a New York, diciamo, bisogna risalire ad altri tipi di per diciamo coprifuochi in chiave di disordini sociali, di proteste sociali, di tensioni sociali, bisogna risalire ad altre epoche. Scontri molto significativi, rivolte, diciamo, a sfondo razziale sono avvenute, però va ricordato in questo paese, diciamo così, con una certa quasi tragica ricorrenza. Los Angeles è stata, diciamo, teatro, ricordiamo, insomma, negli inizi degli anni 90 di forti disordini anche lì per, diciamo, proteste legate alla brutalità della polizia e alla necessità di riforme sociali. Quindi, diciamo, è un problema che il paese si trascina e che, tra l'altro, si trascinerà a questo punto anche, diciamo, come tema forte nella campagna elettorale. Oggi il rivale di Trump alle elezioni a novembre, il candidato democratico Joe Biden, ha fatto la sua prima uscita pubblica dal momento della paralisi del coronavirus. Ha parlato a Filadelfia, una delle città teatro delle più forti manifestazioni, e ha sfoggiato un tono molto diverso da quello di Trump, un tono in cui ha promesso, diciamo, che se sarà eletto lui si sforzerà di ricucire le tensioni razziali, di promuovere programmi di riforma per le comunità delle minoranze etniche, di riforma della polizia, per diciamo rapporti migliori tra le comunità e gli agenti delle forze dell'ordine. Marco, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. A voi. Sono le 21:29 minuti, adesso abbiamo una breve pausa, riprendiamo tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Le 21:33 minuti, questa è Radio 24, effetto notte, da qui riparte l'Italia del coraggio, dice Mattarella in visita a Codogno, da domani al via lo spostamento fra le regioni. Quasi raddoppiati i contagi nelle ultime 24 ore, ma a fronte di molti più tamponi scendono i morti, 55, sotto quota 40.000 i malati di coronavirus. Ancora scontri negli Stati Uniti, due morti a Chicago, coprifuoco a New York fino a domenica, ma Di Blasio, il sindaco, non vuole la Guardia Nazionale. Sono ufficiali le prime 8 gare della Formula 1, doppio appuntamento in Austria e in Gran Bretagna. Dunque, abbiamo iniziato questa edizione di Effetto Notte dicendo che Milano era sotto una pioggia battente che diluviava. Devo dire che negli ultimi periodi le piogge sono sempre più intense, io non le ricordo 20-30 anni fa, e i nostri ascoltatori, alcuni ci hanno scritto ad esempio da Lecco che pioveva fino a poco fa, c'era grandine alle 18, e a Genova invece c'è bel tempo. Scriveteci se ci volete fare sapere che tempo fa nella nostra bella Italia. Saluto Maurizio Caprino, buonasera Maurizio, ciao. Buonasera a tutti. Maurizio Caprino è una delle firme della redazione Norme e Tributi del Sole 24 Ore, esperto di molte cose, ma in questa veste di trasporti, di mobilità. Allora, la prima cosa che vorrei chiederti, Maurizio, è se immaginiamo che molti si sposteranno, magari ci stanno ascoltando anche in questo momento, si stanno spostando in automobile. In automobile possiamo fare quello che vogliamo o non è mica detto? No, non è mica detto, diciamo possiamo fare quello che vogliamo se siamo conviventi, nel senso che si presume che se abbiamo vissuto tutto il periodo della quarantena, della pandemia, dell'emergenza più cupa sotto lo stesso tetto e non ci siamo ancora contagiati, insomma non abbiamo avuto ancora sintomi, verosimilmente non avremo conseguenze nel viaggiare insieme gomito a gomito. Quindi però attenzione che già sul significato di conviventi bisogna un po' fare una riflessione, nel senso che si è conviventi per la burocrazia se si risulta abitare sotto lo stesso tetto, ma questo non vuol dire, cioè lo stato di famiglia insomma può assolutamente mentire, quindi assolutamente bisogna un po' farsi l'esame di coscienza e dire a se stessi se appunto diciamo la convivenza è davvero collaudata, ha avuto anche il sigillo della pandemia. Cioè, se mi fermano... quando invece non si è conviventi bisogna osservare le stesse regole che sono state stabilite col protocollo per i mezzi pubblici che si applica anche ai taxi. Questa cosa non è mai stata detta in maniera ufficiale, perché in maniera ufficiale ci sono soltanto appunto i protocolli allegati al DPCM del 17 maggio che riguardano i mezzi pubblici, però le cosiddette FAQ, quindi le risposte alle domande più frequenti pubblicate dal Ministero dell'Interno, che poi vengono spesso cambiate, insomma appaiono, scompaiono, è una cosa un po' opaca, però al momento stabiliscono che le regole per i taxi si adottano anche ai mezzi privati, e quindi sostanzialmente davanti ci può star seduto solo il guidatore e dietro bisogna lasciare un posto vuoto fra i due. Questo vuol dire che sulle auto per esempio omologate per sole 4 persone, perché sono un po' più strettine, si può viaggiare soltanto in due in diagonale, quindi il guidatore davanti a sinistra e il passeggero dietro a destra, e tra l'altro indossando la mascherina. Attenzione, il guidatore, cioè si può non indossare la mascherina soltanto se a bordo si è soli. Quindi se si è soli si può non indossare la mascherina. Quindi mi stai dicendo che se io carico in automobile Filippo Aureggi e Alessandro Schirano, Aureggi dice io non vengo in macchina con te, ma noi non siamo conviventi perché ci vediamo solo al lavoro, io guido, Filippo Aureggi e Alessandro Schirano stanno uno da una parte e uno dall'altra nei sedili posteriori e tutti con la mascherina. Tutti con la mascherina, assolutamente, e quindi tu non puoi occupare salire. Il posto centrale. Cioè tu non puoi salire. Maurizio, tu non puoi salire sull'auto? No, non potrei assolutamente salire, non si possono dare passaggi, assolutamente no. Cioè, quindi non è che ci possiamo stare in quattro perché di fianco... Ah, interessante questo. Invece se siamo tutti conviventi non ci abbiamo problemi, dobbiamo dimostrarlo alle forze dell'ordine che eventualmente ci fermano. Sì, bisogna dimostrarlo, ripeto, non credo che valga, anche su questo il governo non si è mai espresso, però personalmente ritengo che non valga lo stato di famiglia, piuttosto occorrerà fornire qualche altra prova del fatto che si convive, ecco, per esempio se si è residenti in città diverse, per esempio, e però si dimostra con non so, gli SMS che danno conto di dove abbiamo fatto le nostre spese, no, con la carta di credito negli ultimi mesi, beh, probabilmente se esce che abbiamo sempre speso nella zona dove abita l'altra persona, insomma, probabilmente riusciremo a convincere un agente, ecco. Interessante, quindi questo è molto importante. In motociclette immagino che non ci siano delle limitazioni di alcun che, giusto? Ma diciamo che il governo non ne ha mai parlato, almeno non ne sta parlando adesso, perché prima era più possibilista, adesso non si esprime assolutamente. Diciamo che di sicuro vale la norma generale per cui se non si è in grado di mantenere un distanziamento di un metro, allora bisogna avere la mascherina. Però anche lì sulla moto ci sono dei problemi particolari, perché mascherina e casco non vanno d'accordo, almeno col casco integrale. Col casco jet, quello diciamo col mento aperto, è una cosa un po' diversa, però ripeto, queste sono soltanto delle congetture, perché attualmente le FAC di questo non si occupano, e men che meno se ne occupano i vari DPCM, che poi alla fine sono quelli che fanno stato giuridicamente. Le FAC invece sono più che altro delle interpretazioni, delle indicazioni che spesso però non comportano una effettiva sanzionabilità, perché su quello fanno più testo i DPCM. Però insomma, l'incertezza, come è stato anche durante il lockdown, l'incertezza è molto elevata, quindi alla fine io ricorderei sempre che la vera sanzione è il contagio. Quindi ognuno di noi, sta alla coscienza di ognuno di noi proteggere se stesso e proteggere gli altri, questo al di là della sanzione. Non pensiamo sempre in questi termini giuridici, e lo dice uno che lavora a norme e tributi, perché con il virus diciamo che non funziona così. Già nella vita normale non ci facciamo mai troppo bene se facciamo i cavillosi, figurarsi contro il virus, che ovviamente dei cavilli se ne frega, insomma. Non c'è dubbio. Maurizio, rimani con noi. Adesso saluto Marco Mancini, che è il portavoce delle Ferrovie dello Stato. Buonasera, Mancini. Buonasera a tutti voi. Ci aggiorni sulla situazione. La prima curiosità che abbiamo è se state registrando un aumento delle prenotazioni, anche in che percentuale, in che quantità, visto che appunto da stanotte si può viaggiare più liberamente. E intanto appunto l'offerta di treni a lunga percorrenza, ovvero sia di Frecce e Intercity, proprio da domani aumenta. Passiamo dagli attuali 38 Frecce a 80, e gli Intercity raddoppiano, da 20 diventano 48. Abbiamo un aumento soprattutto nei primi giorni, il 3 e il 4, poi nei giorni successivi onestamente non si vedono ancora segnali di crescita della domanda. Probabilmente questi due primi giorni sono i giorni tanto attesi da chi può ora spostarsi da una regione all'altra, magari per andare a trovare parenti e amici, e da tanto tempo non riescono a vedere. Senti, il numero di treni sulla rete, fatto 100 il totale, quello diciamo che conoscevamo fino a febbraio, a che percentuale tornerà da domani? Allora, intanto c'è stata una crescita progressiva con i vari step della cosiddetta fase 2, quindi sono passati da un minimo storico di una decina di corse a lunga percorrenza, che sono servite a garantire, come dire, la mobilità soprattutto di operatori sanitari, medici, volontari, infermieri e di operatori dei servizi essenziali, che tra l'altro molti dei quali hanno potuto viaggiare gratis in questo periodo. E progressivamente l'offerta sta crescendo, arriveremo a metà giugno, quando inizierà l'orario estivo, ad avere circa il 50% delle frecce che normalmente circolano in questo periodo. Gli Intercity diventeranno 90, i regionali anche questi sono cresciuti, e da domani saranno oltre 4.650. Sussiste ovviamente il distanziamento cosiddetto sociale anche a bordo, che non consente di riempire il treno, ma arriviamo fino al 50%, quindi un distanziamento che su Frecce Intercity avviene grazie ai sistemi di vendita, che proprio permettono di acquistare soltanto i posti, le sedute rese libere, e quindi con una vendita cosiddetta scacchiera, mentre sui regionali ci sono dei marker, ci sono anche peraltro sulle frecce, ma sono dei marker che individuano le sedute dove non ci si può sedere. Tutto questo, appunto, i treni, nella migliore delle ipotesi, le frecce portano un Freccia Rossa 500, arriverà a portare al massimo 280 persone circa, quindi la metà di quelle che normalmente potrebbe trasportare. C'è un motivo per cui non si torna al 100% della capacità sulla rete? Allora, intanto l'offerta, diciamo che al momento e fino ad oggi è stata modellata in base alla domanda. Appunto, ne ho detto. Cioè, viaggia meno gente, insomma. I treni a lunga percorrenza, fino ad ora, con i limiti imposti dai vari decreti alla circolazione fra regioni, erano diciamo di un numero più che sufficiente per rispondere alla domanda. Ad oggi la crescita c'è stata, c'è notevole perché raddoppiamo le frecce da 38-80 e l'intercity passa da 20 a 48, cresceranno ulteriormente, siamo pronti a far crescere ulteriormente la domanda, quindi monitorare quella che è la domanda per offrire una risposta coerente alla richiesta del mercato, alla richiesta delle persone. L'obiettivo alla fine nostro e credo un po' di tutti è quello di creare i presupposti per incentivare i flussi turistici quest'estate con un viaggio sicuro, perché viaggiare in treno garantisce sicurezza grazie a tutti gli strumenti e le misure messe in atto in queste settimane e in questi mesi. Si va da una sanificazione continua dei treni tutte le volte che rientrano in deposito, ma anche in tutte le fasi del viaggio grazie a degli operatori presenti a bordo. Addirittura sulle frecce i viaggiatori possono con il loro smartphone posizionarlo davanti a un QR code e verificare gli interventi che sono stati fatti. Sulle frecce alta velocità viene consegnato un safety kit, cioè un kit contenente mascherina protettiva, guanti, gel disinfettante e anche un poggiatesta monouso. Quindi c'è un'attenzione protratta in tutte le fasi del viaggio per la tutela della sicurezza sia dei viaggiatori che del personale che lavora a bordo del treno. Mancini, le faccio un'ultima domanda. C'è modo di far prenotare, ad esempio, ad una famiglia posti tutti attigui, visto che per le famiglie e conviventi non ci sono limitazioni di stanziamento? Ecco, queste sono tutte fasi di evoluzione che stiamo cercando di verificare, perché questa effettivamente potrebbe essere un'ipotesi ragionevole, come sentivo poc'anzi nel collegamento precedente, parlare appunto di famiglie e viaggio in auto insieme, questa potrebbe essere una possibilità da valutare, proprio per consentire a questi treni di viaggiare con un numero superiore all'attuale, che mi ripeto, si sta parlando del 50% di quella che sarebbe la capienza massima di un treno. Al momento l'offerta dei treni sta rispondendo adeguatamente alla domanda. La scorsa settimana sui treni regionali hanno viaggiato mediamente in una giornata 340.000 persone, che costituiscono meno di un quarto di quelli che erano i viaggiatori ante-Covid. Però bisogna considerare che abbiamo ad esempio le scuole chiuse, quindi insegnanti e tutti gli studenti che non viaggiano. È evidente che a fronte di una domanda che cresce l'offerta dovrà progressivamente adeguarsi, questo è inevitabile. Quindi al momento seguiamo quelle che sono le direttive dei vari decreti presidenziali, le linee guida del Ministero, fra l'altro proprio da domani è previsto un controllo della temperatura a tutti i viaggiatori che salgono su frecce, intercity, treni ad alta velocità. Nel caso in cui i viaggiatori avessero una temperatura superiore ai 37 gradi e mezzo, non possono salire. Perfetto. Questo è una raccomandazione che mi sento di fare per chi ci ascolta, perché ripeto, già domani e dopodomani abbiamo un buon numero di viaggiatori sui nostri treni, di presentarsi con un certo anticipo in stazione per rendere fluido questo percorso e queste procedure di controllo. Grazie a Marco Mancini delle Ferrovie dello Stato, buona serata, grazie. A voi, buona serata. Maurizio, ti abbiamo fatto aspettare per concludere parlando di traffico automobilistico. Tu ti aspetti che ci saranno problemi sulla rete, sia perché magari più persone utilizzeranno l'automobile o anche per problemi alla rete, oltre ai periodi classici, anche in periodi dove normalmente il traffico sarebbe stato regolare? Sì, assolutamente c'è da attendersi. Intanto un assist ce l'ha dato proprio Mancini poco fa, nel senso che ci ha fondamentalmente detto che ancora a metà giugno sui treni c'è domanda per il 25% dell'utenza normale. Vuol dire un po' che la gente non si muove, diciamo, ha paura di muoversi, e un po' perché magari la paura tende a far utilizzare di più l'automobile. Utilizzando di più l'automobile, gli esperti, diciamo, del settore autostradale guardano con abbastanza apprensione il prossimo weekend, in particolare per quanto riguarda la Liguria, perché potrebbe esserci la prima ondata di turisti o di proprietari di seconde case che vengono dal Piemonte, dalla Lombardia soprattutto, si potrebbero riversare in Liguria. E cosa troveranno? Troveranno una rete che è martoriata dai cantieri che sono stati resi necessari, lavori urgenti, urgentissimi, necessari per il degrado che è emerso dopo, dalle indagini dopo il Ponte Morandi. C'è stato anche un ulteriore crollo, ricordo la vigilia di Capodanno scorso in una galleria della A26 che collega Genova alla pianura padana, per cui è pieno di chiusure. Ci sono 36 in Liguria, sono chiuse 36 gallerie, si spera che diventeranno appena 31, appena si fa per dire. Poi ci sono tanti viadotti su cui si viaggia a carreggiata o a corsia unica, quindi sarà una percorribilità piuttosto problematica. I problemi ci sono anche su altre autostrade, in particolare l'Adriatica e in particolare la Napoli-Bari, il tratto appenninico della Napoli-Bari. Probabilmente sarà ancora peggio a partire da fine giugno, inizio luglio, perché anche al centro-sud cominceranno le ispezioni strutturali nelle gallerie, le stesse ispezioni che hanno portato a chiudere le 36 gallerie in Liguria. Adesso il modello viene finalmente replicato anche in altre zone, dovrebbe addirittura diventare nazionale, e quindi ovviamente Autostrade per l'Italia si sta dando da fare, adesso sta collaborando sia con la magistratura sia con l'ispettore ministeriale Placido Migliorino, che si sta guardando un po' tutta la rete, la sta passando ai raggi X praticamente da solo, purtroppo, quindi c'è una buona intesa. Sicuramente si cerca di risolvere adesso i problemi, non si cerca più di trincerarsi dietro anche qui cavilli e varie fumosità, le cose che abbiamo visto purtroppo per anni. Tuttavia la situazione, si parte da una situazione assolutamente pesante, per cui bisogna mettere anche qui in conto di avere tempi di percorrenza più alti rispetto al solito. Ok. Molto bene, grazie. Grazie a Maurizio Caprino per essere stato con noi. Una buona serata o una buona notte, dipende. Grazie a te, arrivederci. Grazie. Dunque, sono le 21:51 minuti. Intanto vi informo che le borse sono state regolarmente aperte, anche la borsa di Milano. La borsa di Milano, per chi si fosse perso l'indice, è salita del 2,32%. E anche la borsa americana è positiva. In questo momento l'indice Dow Jones sale dello 0,89%, il Nasdaq dello 0,42%. Quindi anche oggi la borsa americana si disinteressa del caos che sta accadendo e che sta attraversando gli Stati Uniti. Sergio Nava, il nostro collega Sergio Nava, buonasera, ciao Sergio. Ciao Enrico. Dunque, con te vogliamo parlare di quello che succederà in Europa. Allora, mi sembra di capire che la data con la quale l'Europa dovrebbe riaprire, poi mi dirai tu se riapre veramente o ci sono una serie di distinguo, di dipende, riaprire i confini è quella del 15 di giugno, quindi dobbiamo aspettare ancora un paio di settimane. Ma diciamo sì che è la data più generale che possiamo dare, perché non è detto, anzi sicuramente non sarà così, non ci sarà una riapertura generale dei confini interni. Tra l'altro ricordiamo anche che l'Europa al momento ha i confini chiusi verso paesi terzi, quindi non si può viaggiare in Europa da un paese terzo. Però perché il 15 di giugno? Perché tendenzialmente i grandi paesi guardano con interesse a quella data. Parliamo della Germania, della Francia, l'Italia in realtà avrebbe già riaperto i suoi confini addirittura, anzi scusate, li riaprirà domani agli altri paesi, anche se non c'è di fatto reciprocità. La data chiave da segnare in calendario è quella di venerdì. Venerdì ci sarà una riunione in videoconferenza dei ministri dell'interno europei Dovremmo avere degli aggiornamenti importanti. Non ci sarà comunque una riapertura generale, perché la Spagna, per esempio, ha già detto che fino al 1° luglio non si potrà andare in Spagna, o meglio, si potrà andare, ma si dovrà stare poi in quarantena 2 settimane. Quindi non ha molto senso effettivamente intraprendere dei viaggi per poi farsi una quarantena di 2 settimane. Quindi chi volesse andare in Spagna è già avvisato che prima del 1° luglio non ha granché senso. La Germania domani dovrebbe varare nuove linee guida sulla circolazione in Europa, sul viaggio in Europa, e sarà interessante capire cosa diranno i tedeschi. Si stanno orientando verso il 15 giugno. Anche la Francia, dovremmo riuscire a espatriare in Francia con più facilità dal 15 giugno, al momento ci si può andare sostanzialmente per lavoro o per necessità. C'è il problema Austria anche, perché l'Austria pare abbia aperto una riapertura dei confini con l'Italia dal 15 giugno, ma non è ancora chiaro se lo farà con tutta l'Italia o solo per esempio col Trentino Alto Adige e qualche altra regione. La Svizzera non si è ancora espressa, sto parlando delle regioni più vicine, dei paesi più vicini a noi. La Svizzera non si è ancora ufficialmente espressa, ma si parla addirittura del 6 luglio per riaprire una piena circolazione, quindi non solo a chi lavora in Svizzera, i frontalieri per esempio. C'è il problema Grecia, continuiamo con l'elenco. La Grecia che ha detto che dal 15 giugno al 30 giugno 4 regioni del nord Italia saranno comunque soggette a limitazioni, perché chi arriva da Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte dovrà comunque fare un tampone, e poi se positivo dovrà farsi 2 settimane di quarantena in Grecia, e anche se negativo si dovrà fare 1 settimana. Dal 1° luglio questo non dovrebbe avvenire, ma anche qui la Grecia dice non dovrebbe, condizionale. È un paese in massima allerta, anche perché ha sospeso fino al 15 giugno i voli col Qatar dopo che un volo da Doha ha portato in Grecia 12 positivi al coronavirus. Come vedi Enrico, se vogliamo tracciare una mappa degli spostamenti in Europa, c'è ancora un puzzle molto complicato. Molto molto complicato, sì. Hai fatto bene a ricordare questa decisione di Atene nei confronti di Qatar Airways, che invece vola da poco su Milano, ha ripreso i voli su Milano, e la Grecia, che ha gestito molto bene questa situazione, continua ad essere particolarmente prudente, e quindi devo dire facciamo un applauso ai nostri colleghi, amici greci. La situazione in Europa rimane molto differenziata anche per quanto riguarda la diffusione del virus. Alcuni paesi hanno sostanzialmente risolto ampiamente la situazione, altri si stanno affacciando ad una soluzione, altri non tanto. Ad esempio la Gran Bretagna ha ancora numeri abbastanza elevati. E sì, in Gran Bretagna siamo ancora nell'ordine di circa 300 vittime al giorno, e la Gran Bretagna, sotto il punto di vista della mobilità, per tornare alla mobilità, è quello che fondamentalmente presenta i problemi maggiori. Non dimentichiamo che è anche un paese che ha forti interscambi con l'Italia. In Gran Bretagna dall'8 giugno, quindi fra 6 giorni, scatta una quarantena di 2 settimane per chiunque entri nel paese provenendo da un altro paese europeo. Quindi viaggiare in Gran Bretagna, parlando di viaggi, è ancora molto, e lo sarà ancora di più, molto complicato. In Spagna per il secondo giorno consecutivo non ci sono vittime, questo è veramente una buona notizia, perché la Spagna con l'Italia e anche la Gran Bretagna è stato uno dei paesi più colpiti. E resta però, attenzione, in vigore lo stato di emergenza, è stato prorogato un'altra volta fino al 21 giugno in Spagna, è stato forse il paese che ha più volte prolungato lo stato di emergenza. Comunque, come dicevo prima, dal 1° luglio, salvo sorprese, la Spagna riaprirà le porte anche ai turisti, e quindi sarà molto più semplice andare in Spagna, sempre con le dovute precauzioni. Non dimentichiamo, Enrico, vorrei anche a chi ci ascolta chiarire 2 concetti importanti. Anche la riapertura delle frontiere comunque non significa un liberi tutti. Comunque dovremo mantenere per tutta l'estate, anche durante le nostre vacanze, delle precauzioni, primo. Secondo, tutte queste normative, no? Il dire adesso si può viaggiare, adesso ci si può spostare, sono soggette a una condizione, cioè che la situazione non peggiori. Se dovesse peggiorare in alcuni territori, in alcuni paesi, tutto quello che diciamo non varrà più, e quindi ci si troverà nuovamente a magari a prenotare dei viaggi e poi non poter andare. E terzo punto, che forse qualcuno ancora un po' sottovaluta, sottostima e non ci si fa molto caso, viaggiare, anche andare in vacanza quest'estate, sarà complicato anche da un altro fattore. Una banale influenza, che non sia magari coronavirus, può far saltare per aria i piani, perché basta un semplice controllo anche a campione alla frontiera o all'aeroporto o alla stazione di arrivo in un paese straniero e si viene probabilmente rispediti indietro se si ha una febbre superiore a 37,5, non necessariamente una febbre a coronavirus, ma semplicemente una banale influenza un malessere. Quindi tutti i nostri piani anche di viaggio per l'estate dovremmo stare molto attenti a quello, sia dove andremo, sia a quali confini saranno aperti, ma anche alle situazioni, agli imprevisti che potrebbero capitare. Grazie a Sergio Nava per questo quadro molto completo e grazie anche per averci ricordato questi ultimi particolari che sono assolutamente da ricordare. Ciao, buona serata. Ciao, ciao Rico. Sono le 21:58 minuti, abbiamo aperto con la pioggia che cadeva copiosa su Milano, nel frattempo ha smesso di piovere e la nostra amica Anna che ci sta ascoltando da Udine è rimasta delusa perché dice: noi qui attendavamo la pioggia ma non è caduto nulla. Ci risentiamo tra poco.